chito al tuo piede queste catene in via, e alle catene il carcere succede. Chiuso il mio sol fra l'ombre, e al carcere la scure, onde quel capo cade nel suolo troncato. Mio geminio svenuto, tua lente che più indugio,